Obiettivo Salute Weekend di Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buongiorno a voi e benvenuti, sono qui con voi in diretta come ogni giorno. Dedichiamo questo spazio agli aggiornamenti sul coronavirus, facciamo il punto della situazione insieme ai nostri esperti. Qui in studio il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi. In linea, buongiorno professore. Buongiorno, buongiorno a tutti. In linea abbiamo Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore in sanità pubblica all'Università di Milano. 349-238-6666. Un numero sempre a vostra disposizione per inviare sms, messaggi WhatsApp, di testo vocale. Potete intervenire con le vostre domande, i vostri commenti e le vostre segnalazioni. Ma intanto saluto il professor Walter Ricciardi, consigliere del Ministero della Salute per il coordinamento con le istituzioni sanitarie internazionali per l'emergenza Covid-19, che ringrazio per essere con noi. Buongiorno professore. Buongiorno, grazie a voi. Professore, sappiamo che questi sono giorni molto importanti per stabilire l'efficacia delle misure di contenimento e quindi l'evoluzione dell'epidemia. Quali notizie fresche ci porta? Ci sono degli aggiornamenti? Ma stiamo lavorando, il Comitato Tecnico Scientifico oggi sarà tutta la giornata al lavoro per vedere quali sono i dati epidemiologici che arrivano dalle diverse zone del paese e per prendere delle misure che siano tempestivamente adeguate a quella che è l'evoluzione della situazione epidemiologica. È chiaro che questo sarà una necessità ed è una necessità che verrà, io credo, presa dal governo domani con un consiglio dei ministri ad hoc. Professor Ricciardi, ma si possono intravedere dei segnali anche deboli, ma utili a fare delle considerazioni, delle previsioni? Ma lo scenario attuale è ancora uno scenario incrementale, diciamo, forse i dati positivi arrivano dall'interno delle cosiddette zone rosse, dove la curva epidemica sembra rallentare, ma non c'è dubbio che questo non succede nelle zone gialle, cioè nella Lombardia, in Emilia Romagna, in una parte del Veneto che però va un po' meglio, diciamo, del previsto, ed altre, in altre province come quella di Savona, di Pesaro, insomma, ecco, nel resto del paese la situazione ancora presenta dei casi isolati, però cominciano a diventare dei cluster, la maggior parte dei quali certamente riconducibili ai focolai originali della Lombardia e del Veneto, però cominciano a esserci dei segnali di preoccupazione anche, diciamo, di casi secondari tra virgolette locali, per cui la situazione è sicuramente seria, è una situazione ancora in incremento, vedremo ancora l'aumento dei casi nella prossima settimana e speriamo che naturalmente tutte le misure che sono state messe in atto, su cui ieri a Bruxelles sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità sia tutti gli Stati membri hanno riconosciuto all'Italia nelle ultime due settimane la decisione, la tempestività e anche il desiderio di imparare, nel senso che il modello italiano è in questo momento per l'anticipazione dell'epidemia, ma che loro sono pienamente consapevoli che arriverà anche da loro, in qualche modo stanno scambiando con noi delle informazioni per adeguare anche la loro risposta. Questo particolarmente per la Germania, la Francia e la Spagna. Insomma, faremo scuola, professor Ricciardi? E faremo scuola perché di fatto questa epidemia ci ha colpiti per primi per una serie di eventi, alcuni dei quali sfortunati, altri dei quali forse ce l'abbiamo messa noi, nel senso che la governance regionale, che è tradizione costituzionale del nostro paese dal 2001, voglio dire, se in tempi di pace o in tempi ordinari produce tra virgolette solo diseguaglianze tra le regioni, per cui un'aspettativa di vita che è molto migliore nel sud rispetto al nord, in tempi di epidemia produce porte aperte ai virus, perché chiaramente i virus non guardano le circoscrizioni, certo, Non guardano gli schieramenti politici. Professore, la Lombardia è la regione con il maggior numero di casi. Si legge che si sta valutando l'ipotesi di aumentare il numero delle zone rosse, di estendere, no, la zona rossa di contenimento ad altre zone. Lei che cosa pensa, ma che questo, cosa prevede? Allora, e come leggere, diciamo, nel caso questa decisione? Perché il rosso è già il colore allarma, ma c'è anche l'altro lato della medaglia. No, ma su questo non è stata presa ancora nessuna decisione, ripeto, lo prenderà la politica, il governo, dopo queste analisi che faremo oggi, che farà il Comitato Tecnico Scientifico, per cui non c'è nessuna decisione presa, ma le decisioni saranno prese proprio sulla base della situazione che cambia ovviamente di momento in momento, nel senso che in una settimana, come lei ha visto, e se guarda la mappa della Lombardia, noi siamo passati da casi puntuali praticamente al coinvolgimento dell'intera regione. E questa è una considerazione che dobbiamo fare nella consapevolezza che devono essere contemporaneamente prese misure di contenimento, ma anche misure di di mitigazione, come sta succedendo negli ospedali lombardi. Gli ospedali lombardi sono sotto uno stress fortissimo, arrivano da quelle zone delle segnalazioni di grande lavoro straordinario da parte dei medici, ma anche di grande pressione. E qua in studio con me il professor Pregliasco. Professore. Sì, effettivamente la situazione lombarda, come Walter Ricciardi giustamente evidenziava dal suo punto di osservazione, comincia a essere, diciamo, stressata, e tantissimi colleghi che lavorano con grande entusiasmo e dedizione, questo è l'elemento importante che sta emergendo. È chiaro che le azioni devono essere importanti e imponenti e vanno attuate a livello nazionale. Credo che Walter sia d'accordo nel dire che non va sottovalutato, e vedo, avendo avuto modo di girare per lavoro, ma chissà se riuscirò ancora a farlo nei prossimi giorni, diversi approcci. Qui in Lombardia c'è l'evidenza, perché Lodi sin dall'inizio è a due passi da Milano, dal territorio, e c'è stata un'attivazione, una riorganizzazione a livello di Regione Lombardia, di riorganizzazione degli ospedali. Io credo che tutto questo debba essere attuato comunque su tutto il territorio nazionale. Professor Ricciardi, una battuta per chiudere. Sono totalmente d'accordo con il professor Pregliasco, e lavoriamo tutti insieme. Questo è il momento in cui dobbiamo serrare le fila, sia a livello nazionale che regionale, ma noi su questo siamo veramente campioni del mondo, per cui ce la faremo. Mi piace, campioni del mondo. Grazie professor Ricciardi per essere stato con noi. A voi, arrivederci. Professor Pregliasco, i casi aumentano in Italia e nel resto dell'Europa, l'OMS ammette anche la possibilità di un'evoluzione che potrebbe portare alla dichiarazione dello stato pandemico. Quali sono i criteri per dichiarare la pandemia e che cosa cambierebbero? Ci sarebbero misure più restrittive? E poi passo ad Alberto Pellai. Ma allora, pandemia è una definizione didattica dei testi di sanità pubblica. È però una parola che ci spaventa. È una parola che spaventa, giustamente. Pandemia vuol dire una diffusione nelle comunità, in tutte le comunità del mondo, in modo incontrollato del virus. In questo momento siamo, diciamo, vicini a questo baratro, oggettivamente. L'Organizzazione Mondiale della Sanità, però, bisogna ricordare, ha una solo un'azione di suggerimento, di facilitazione del coordinamento. È chiaro che, essendo un'emanazione internazionale delle Nazioni Unite, possono esserci sanzioni o comunque evidenze di non seguire indicazioni che potranno essere diversificate. Quindi non è detto che debba essere una chiusura del mondo, ma sicuramente, come è già stato fatto per l'H1N1 nel 2009 e con Ebola, nelle cose, delle misure da graduare, da valutare, un po' come si sta facendo in Italia, quindi in modo sartoriale, identificare cosa c'è da fare. Ascoltiamo un WhatsApp vocale per il commento dei nostri esperti, e poi leggerò i numerosissimi messaggi che arrivano al 349-238-6666. Oggi con il professor Pregliasco e con Alberto Pellai affronteremo il tema dal côté, no? Epidemiologico, virologico, di trasmissione del virus, ma insieme ad Alberto Pellai anche parleremo delle nostre paure. Stiamo diventando un po' tutti patofobici, veniamo definiti. Allora, sentiamo il messaggio vocale, andiamo. Sera, lo speciale di Porta a Porta di Vespa, c'era una dottoressa che lavora al Sacco, che ha detto una cosa che contrasta con tutto quello che hanno detto fino adesso. Dice che gli asintomatici non contagiano. Adesso io vorrei che voi però faceste un po' di chiarezza su questa cosa qua. Allora, noi per fare chiarezza ci fermiamo, ritorniamo subito dopo perché ci sono le informazioni sul traffico. 349-238-6666. Alberto, sei con noi? Certo. Ok, questo mi rassicura. A tra poco. Obiettivo Salute Weekend. Siamo qua per voi e con voi, 349-238-6666, per rispondere alle vostre domande. Alberto Pellai in linea, medico psicoterapeuta, scrittore, ricercatore in sanità pubblica, il professor Pregliasco, virologo all'Università di Milano e direttore sanitario dell'IRCCS, Istituto Ortopedico Galeazzi. Allora, rispondiamo al WhatsApp. Allora, è fondamentale ribadire che sono i soggetti sintomatici che emettono quelle goccioline respiratorie che tutti sappiamo, vediamo quando si starnutisce, quando ti tossisce, e lì c'è un'elevata concentrazione virale. È chiaro che non c'è ancora una completa conoscenza di tutto il fenomeno, perché è da pochi mesi che si conosce e la problematica si sta approfondendo. Sicuramente sappiamo che, l'abbiamo visto, una gran quota di soggetti ha forme più banali con simili influenzali, quindi difficilmente riconoscibili. È presumibile che chi è sintomatico comunque una quota di carica virale la possa emettere, e diciamo con minore probabilità e percentuale di possibilità anche chi ha una sintomatologia blanda. Quindi davvero il problema è, diciamo, stiamo dicendo tutti la stessa cosa. La collega ha voluto mettere in evidenza i livelli di rischio. Il sintomatico è certo, gli altri sono un magari la carica virale è assolutamente più bassa. Non tutte le infezioni sono efficaci, lo sappiamo in generale per tutte le malattie, a determinare poi un'infezione che si propaga, una malattia. Alberto, anche se ti dovrei chiamare professor Pellai, una delle complicanze del coronavirus è la patofobia, un nome un po' complicato. Che cos'è? Rischiamo di diventare tutti patofobici in queste settimane? Ma credo che in realtà lo siamo già diventati. Fondamentalmente il patofobico è una persona che ha una sorta di pensiero fisso e ossessivo, sempre concentrato sullo stesso elemento, cioè sulla stessa patologia, e chiaramente in questo momento è il coronavirus. È molto diverso dall'ipocondriaco, perché mentre l'ipocondriaco ha un'ansia generalizzata, è completamente dislocata in tutti i distretti del suo organismo, quindi si sente un po' addosso tutte le malattie, il patofobico ne sente addosso solo una e su quella si concentra in modo ossessivo, e chiaramente col clima di ansia e di allarme che è costantemente diffuso e che un po' tutti percepiamo, è molto più facile entrare in quel loop. E si vede anche questo momento che impatta anche sui nostri pensieri, sulle nostre emozioni, amplifica i nostri dubbi, le nostre paure, dai messaggi che stanno arrivando al 349-238-6666. Elio, ad esempio, ci scrive da Roma: ma anche con il semplice respiro può trasmettersi l'infezione. Professor Pregliasco. Un soggetto che tossisce, che è ammalato, può disperdere nell'ambito di un metro e mezzo queste goccioline respiratorie che possono essere assorbite, inalate dal soggetto suscettibile o in via indiretta, ed è qui l'elemento del lavarsi le mani, dell'attenzione all'igiene personale, lasciate, diciamo così, depositare su oggetti, su superfici, su maniglie, e in via indiretta attraverso le mani, che noi spesso, e in questo caso dobbiamo ricordarci, ci tocchiamo con la bocca, le mani, gli occhi, il naso, è da lì che poi l'infezione arriva. Ecco, questo spiega perché il semplice ma accurato lavaggio delle mani resti una delle misure più efficaci, anche se trattandosi di un virus respiratorio non è immediato pensare, no, alle mani. Esatto, è questo l'elemento che tra l'altro ci pone come problematica in generale. Le mani nelle infezioni correlate all'assistenza, quelle che sono un problema a livello ospedaliero in generale, sono il punto veramente di svolta e di attenzione sistematico in ogni momento, e diventano un problema per gli operatori sanitari sempre, e in particolare adesso quando assistono malati, e poi per tutti noi. Quindi io credo che da questa esperienza nascerà l'elemento. Mi pare importante, volevo chiedere ad Alberto di commentare una opzione distinta del patofobico. Alberto peraltro è un amico caro di anni e lo stimo profondamente, e anche per la sua parte appunto dell'attenzione all'aspetto psicologico che è fondamentale. C'è chi invece dice: stanno esagerando, è una banalissima influenza, ci sono interessi, e continua a fare invece delle cose sbagliate, continua ad assembrarsi, a non seguire queste indicazioni generali. È un modo per, diciamo, mettere la testa come lo struzzo sotto la sabbia, a mio avviso. Sì, credo che questo atteggiamento è effettivamente l'atteggiamento più pericoloso in assoluto, cioè il negazionista alla fine non fa altro che difendersi attraverso una credenza irrazionale che è tutto finto e tutto inventato. Penso che in questo momento, anche dal punto di vista psicologico, è proprio importante che noi, popolazione generale, impariamo a considerare che l'emergenza è un'emergenza molto molto intensa ed elevata, perché il nostro Stato e il nostro Servizio Sanitario Nazionale stanno cercando di limitare la diffusione del contagio. Il problema non è la nostra sopravvivenza, perché noi sopravviveremo praticamente quasi tutti a questo virus, quindi non dobbiamo avere il terrore di morire, non è in gioco la nostra vita. In gioco c'è invece un aspetto molto più collettivo, che è bloccare il più possibile la diffusione del contagio, perché ci sono dei sottogruppi altamente vulnerabili che al crescere del contagio rischiano tantissimo. Questo è proprio una tutela, direi, di una minoranza. E in questo senso la dimostrazione principale sono i nostri bambini, sono spaventatissimi perché vedono un allarme ultra diffuso e al tempo stesso loro appartengono in realtà al sottogruppo che è oggettivamente meno a rischio di tutto, perché quasi nessuno tra l'altro ha i sintomi clinici. Ecco, direi che per noi è proprio importante sentire che in questo momento il lavoro che ci viene chiesto è un lavoro di cooperare a un progetto collettivo, non tanto a tutela della nostra sopravvivenza, ma quanto quella... a tutela di... degli altri. Che, per esempio, sono anche nella nostra famiglia allargata, perché certo, i nostri anziani sono soggetti a rischio. Alberto, sono i dati spesso che ci preoccupano. Vediamo, sentiamo questo numero dei casi in continuo aumento, ma spesso non abbiamo le competenze per leggere i dati. Ad esempio, mettiamo a confronto dei dati che non sono omogenei. Penso per esempio al numero dei casi positivi, no? Che cambia in base al numero di tamponi eseguiti. Ma sicuramente noi dobbiamo vedere dal punto di vista del trend, dell'andamento. Sappiamo che per tutte le patologie infettive i dati notificati cosiddetti, mm-hmm, ci sono disposizioni in generale per il coronavirus, ma anche per il morbillo, per malattie più o meno gravi, ma sappiamo che c'è una sottovalutazione, quindi a noi interessa quello che è l'andamento nel tempo. Non dobbiamo anche stare particolarmente attenti alle questioni giornaliere, perché ci possono essere variazioni legate a diversi momenti di inizio della malattia, cioè chi sarà diagnosticato oggi positivo, considerando il tempo di incubazione che va da 2 a 11 giorni, ha avuto un'infezione pregressa. Quindi anche l'efficacia delle azioni che si stanno attuando le vedremo nei prossimi giorni. Ma essere positivo, Alberto, e qua ti prendo come ricercatore in sanità pubblica, essere positivo al coronavirus, che cosa significa? Non dobbiamo allarmarci, anche se quando noi sentiamo e leggiamo un altro positivo il questore di, come se fosse, no, un grande allarme. È una persona in più che risulta positivo al coronavirus, probabilmente passerà la sua malattia, magari con dei sintomi lievi. Alberto, rassicuriamo anche un po' su questo aspetto. Il concetto di positivo è fondamentalmente il concetto di portatore, vuol dire che all'effettuazione del tampone è stato rilevato la presenza del virus nel cavolo faringeo. Questo non significa per esempio avere i sintomi clinici della malattia. Allo stesso tempo noi sappiamo che questa è un'infezione che appunto decorre in molti casi anche in modo totalmente asintomatico, e questo è proprio il problema che abbiamo in questo momento. Probabilmente ci sono tanti positivi asintomatici non rilevati, certo, e direi che però la buona notizia è questa, che noi abbiamo il tasso di letalità calcolato sul numero di contagi effettivamente rilevati attraverso i tamponi. Probabilmente questo tasso di letalità è oggettivamente più basso, perché essendo calcolato sul numero di tamponi positivi non include invece il denominatore, il numero di soggetti, magari portatori del virus, ma asintomatici. Un po' il caso della Corea insegna, giusto? Esatto, ecco. Esatto. Cioè, fondamentalmente più tamponi fai, più contagio vedrai. Chi cerca trova. Sentiamo il WhatsApp e poi vorrei chiedere al professor Pregliasco, così riassumo molti messaggi, ma questi sintomi, devo avere la febbre? Perché misurate la febbre? Se io non ho la febbre ma ho la tosse, sto a casa, e se mi gratta un po' la gola, e se mi cola un po' il naso? Andiamo al WhatsApp. Andiamo. Io volevo sapere una cosa, ma è possibile che praticamente cambi il ceppo del virus, in pratica che da quello cinese a quello che è venuto poi in Italia, che si sta espandendo nel mondo, si può diversificare, diventare più mortale oppure meno mortale, una cosa del genere? Allora, è possibile, ma i dati confortanti che ci arrivano dagli isolati nelle varie nazioni, in particolare i tanti che i vari nostri colleghi anche di Unime hanno fatto per poter confrontare le sequenze genomiche, ci dicono che il virus ad oggi è stabile, piccole variazioni, il ceppo che gira in Europa è il ceppo di origine cinese e vicino a quello della Germania, quindi un qualcosa che si è diffuso. È vero, questo virus può modificarsi, ma noi lo monitoriamo, potrebbe modificarsi in un senso pesante, negativo o anche in un miglioramento. Però davvero ad oggi la situazione è diciamo sotto controllo e il virus è stabile. L'elemento che volevo aggiungere a quanto giustamente ha detto Alberto è il problema di questa malattia. Questa malattia, tutto sommato, nell'80% dei casi decorre in forma variegata. Non è facile riconoscerla, perché per dire di essere ammalato di coronavirus, così come in ogni inverno, quando anche insieme a Nicoletta abbiamo parlato dell'influenza, non c'è solo il virus influenzale. Io l'ho sempre chiamato il mio influenzologo preferito, eccolo qua. E quindi anche durante un normale inverno, senza l'impiccio dei coronavirus, anzi con l'impiccio dei coronavirus, perché in realtà in un normale inverno le forme simili influenzali più blande sono dovute ad altri coronavirus cugini e fanno parte di quelle infezioni simili influenzali. Quindi davvero diciamo è difficile dire ho il coronavirus o meno, anzi impossibile senza la diagnosi. Diciamo che la caratterizzazione della malattia è nell'80% dei casi una forma influenzale un po' pesantina, quindi febbre. La febbre ci deve essere. La febbre c'è sostanzialmente sempre. Ma una febbrina 37, o una febbre? 37,5, quindi anche dai, 30... i valori, i controlli un po' più bassa di quella dell'influenza. Questo come elemento discriminante, ma non in senso assoluto. Nella casistica c'è nel 90-95% dei casi. Tosse, naso chiuso, naso che cola, congiuntivite, quindi una forma abbastanza consistente. Il guaio, ed è l'elemento critico della situazione e dell'aspetto della sanità pubblica, è che queste persone sostanzialmente tutte guariscono, però una quota di all'incirca il 15% necessita nel decorso addirittura l'assistenza respiratoria, vuoi con un ricovero ospedaliero inusuale se non per pochissimi casi di influenza, salvo le complicanze successive, e la rianimazione. Quindi l'elemento critico, soprattutto qui in Lombardia, è quello di poter disporre di posti aggiuntivi, certo, di terapia intensiva per poter garantire una corretta assistenza a tutte queste persone che poi guariscono. Quindi il decorso normale è un'influenzona un po' più pesante, un po' più prolungata, in quota parte un passaggio anche di qualche settimana con una necessità di assistenza respiratoria e poi però una quota di mortalità nei soggetti con problematiche. Alberto, ultimi minuti, che cosa non fare per precipitare nella patofobia che tu hai ben descritto, insomma di essere così preoccupati e con il pensiero lì fisso sulla malattia. Non trasformare il coronavirus nell'unico pensiero che abbiamo dalla mattina alla sera, perché è vero che siamo in emergenza, ma è anche vero che abbiamo una vita nonostante il coronavirus, il che significa magari rimettere dentro alcune routine, alcune abitudini, pur nei limiti che lo Stato ci ha dato, come per esempio comunque fare una passeggiata, leggere un libro, scegliere una o due persone che noi continuiamo a vedere anche proprio di persona, con cui ci relazioniamo. Il pensiero fisso è questo, che se io rimango tutto il giorno da solo a pensare questa cosa mi può accadere, quella cosa magari non mi accadrà, ma però automaticamente ha già rovinato la mia vita. Grazie al professor Pregliasco, ad Alberto Pellai per essere stati con noi. Per tutte le domande vi rimando alla pagina di Obiettivo Salute sul sito di Radio 24, le domande a cui troverete risposta come nelle scorse settimane. Grazie e buona giornata.